Ben ritrovati e ben ritrovate a una nuova puntata della Fuga del Gatto. Abbiamo latitato per un pochino, sì, siamo colpevoli, ebbene sì, lo ammettiamo, ma siamo tornate, io e la Virgi, in grandissima forma, nonostante l'afa e il caldo domenicale che ci opprime. Gli acciacchi estivi. Tutte queste cose qua, le insolazioni, eritemi, cose così. Però oggi è domenica 16 luglio e, essendo a metà mese, vi facciamo sentire un freschissimo e stivissimo pezzo. In realtà, vabbè, no, non c'entra un cazzo l'estate, effettivamente. No, più che altro la metà mese, non ho capito. No, la metà cioè, mese è okay. Così, cioè, perché è un po' per festeggiare, sì. No? Cioè, mezza è fatta e dai, cioè, possiamo esatto. Far scavallare. Vabbè, non capito. Lo scavallamento. Anche esatto. Me, io prima, quando hai detto il 16, ho detto, vabbè, il 16, siamo già un pezzo avanti. No, cioè non siamo proprio al solstizio, no, siamo un po' dopo. Sì, sì, è andata, diciamo, dai. Siamo già un po' andati. Quindi sì, vi facciamo ascoltare, come vi dicevamo l'altra volta, ok, è passato un po' di tempo, ma insomma, l'altra volta vi raccontavamo del fatto che con la Fuga del Gatto abbiamo inaugurato questo special Summer Special. Sì, come si dice? Sì. Dove vi facciamo ascoltare dei pezzi un po' lunghi, delle composizioni un po' lunghe, ci prendiamo questo lusso. Ve le raccontiamo un pochino giusto all'inizio e poi invece diamo spazio totale alla musica senza interruzioni. Quindi la composizione di oggi è, e indovinerete, cioè, già oggi sul menù abbiamo. Sul menù, per colpa di chi, lo saprete appena vi dico il nome, Harry Purcell. Va bene, sì, è colpa mia. Non ci voleva tanto. Sì, la mia fissa con il barocco e il 600. Harry Purcell, Lode to St. Cecilia's Day, ovvero Cecilia's Day, ovvero lode per il giorno di Santa Cecilia, e ce lo ascolteremo tutto, la durata più o meno di 53 minuti all'incirca, e quindi non è una composizione lunghissimissima, c'è stato di ben di peggio, ma comunque c'è il suo perché. Ora, Lode a Santa Cecilia viene scritta da Nicholas Brady e musicata da Harry Purcell, appunto, nel 1692. Niente cocò di meno che. Esatto, siamo in Inghilterra, proprio un bel periodino. Sì, insomma. Sì, diciamo che era esattamente in quel momento in cui, beh, non è che solo in quel momento, però in cui c'era una guerra di religione tra, vi ricorderete, i puritani cosiddetti, con tutti i vari codici di comportamento e varie problematiche ispirati a Cromwell. Ecco, sì, volevo dire, la sapevo, volevo dire Cromwell. Cromwell ci sta sempre, sì, è lui, è tutta colpa sua, probabilmente, beh, anche di Anna Bolena un po'. Chi ce l'ha sì, perché comunque c'è tutta una storia, ora non ve la possiamo fare. No. È lunga. Ma ve la faremo prossimamente. Sì. E insomma, tra loro e invece le spinte restauratrici del cattolicesimo, con Re Carlo II e poi Giacomo II, Stuart. Ma vabbè, insomma, era un periodino un po' così, dove facevi, sbagliavi sostanzialmente. Sì, facevi male. E quindi, insomma, Harry Purcell dedica quest'ode a Santa Cecilia, che insomma non faceva torto a nessuno. Che nel dolore, insomma. Santa Cecilia più o meno tutti si raccollavano. Ma i santi, i puritani, no? Perché la Francia calvinista, i santi, vabbè. Vero. Però si vede che quello gli piaceva, perché vai. Comunque era una santa un po' particolare, sì. Perché era la patrona dei musicisti. Esatto. si dice che, vabbè, non è assolutamente vero, ma si dice che Cecilia inventò l'organo. E sì, cioè, proprio sicuro, certo, come no. Però sì, siccome inventò l'organo e viene ritratta in diversi dipinti che suona l'organo, e non solo, lei è la santa patrona dei musicisti. In realtà a Parcel probabilmente della santa gli importava il giusto, ma ha colto l'occasione per fare una vera e propria ode alla musica, e vedremo un po' brevemente il perché. Allora, Cecilia, il cui nome secondo la dottrina medievale dell'interpretatio nominis, attenzione, oggi veramente oggi è in forma. Cosa ho detto? No. Vorrebbe significare giglio del cielo, è o vero, guida del cieco, ecco, o cielo della gente. Vabbè, insomma, sembra confusa, non si sa bene. Comunque deriva da o cielo o cieco, secondo me c'era degli errori di trascrizione. Che però quella dei ciechi è Santa Lucia, quindi non ci confondiamo troppo. No. Però insomma. Vabbè. E tra l'altro è un po' la nostra santa Mari. Sì, cioè, di fatto, cercata, adesso. Sì. Sì, ma perché il musicista, perché patrona dei musicisti, anche, non però, per gli handicap. No, certo. Quindi Santa Cecilia appare nel mosaico del Corteo delle Vergini nella chiesa di Santa Apollinare Nuova a Ravenna, tra l'altro dello stesso periodo, cioè, diciamo, in quel periodo storico Santa Cecilia era molto apprezzata. Mi andava. Sì. E allora, la leggenda o la storia, a seconda di come la vedete, vuole che fosse sposata a Valeriano, Cecilia. Ah. Dopo le nozze gli rivela di non poter giacere con lui poiché ha consacrato la sua verginità a Dio, al Dio cristiano, attenzione. Insomma, Valeriano non è che... Valeriano la prende bene, comprende e vabbè, ci avrà avuto mille concubine, gli importava un po' di Cecilia. Appunto Valeriano, so. Esatto. Però comunque Valeriano comprende e accetta, diventando anche egli cristiano. Ah. Ma le persecuzioni contro i cristiani in atto in quel periodo non la risparmiano, e quindi Cecilia viene torturata e poi decapitata. Quindi così non gli è andata molto bene. Così si impara a non andare a letto col marito. È così, una vita di stenti. Sì. E quindi questa era Cecilia. Parcel, e non solo lui, perché successivamente anche Handel, Scarlatti e non solo, gli dedica uno dei suoi lavori fatto in tarda età, molto, molto bella, lo sentiremo. E vabbè, appunto, in realtà ci sono varie cose interessanti da notare, le varie concatenazioni armoniche, e ci sono diverse dissonanze che se prestate orecchio le ascolterete, e essenzialmente è una composizione molto variegata con un'ampia scelta di strumenti, quindi ci saranno diversi strumenti, per l'epoca non era proprio usuale. Un organico ampio non era proprio... No, in genere c'era basso continuo e poco altro. Infatti, invece... Qua no, qua ci si sdà, e anche a livello vocale ci sono, lo vedrete, divisa in 13 movimenti, ci sono movimenti solo strumentali, movimenti cantati, e anche all'interno delle cantate ci sono cori, singole voci, duetti e tre voci invece, quindi molto variegata. Ci sono varie arie che poi sono diventate piuttosto famose. Diciamo che il tutto è un po' pervaso da il senso wonder, cioè il senso della meraviglia, dello stupore tipico del barocco. Sì, infatti. Che in Parcel, secondo me, trova proprio il suo massimo splendore. Ed è un omaggio, appunto, come dicevamo prima, alla musica tutta, in un modo, secondo me, quasi sinestetico, nel senso che se andate a vedere, magari ascoltandola così non ci se ne rende bene conto, siccome però io ho avuto la fortuna di studiarne dei pezzettini, e per eseguirli, in realtà, andando a vedere sia la partitura sia il testo, ci sono proprio dei momenti in cui la musica si fonde perfettamente con le parole e con proprio tutta l'armonia e della melodia, e che ne so, si deve descrivere il flauto, non è che si dice c'è il flauto, no, anche con la musica, non necessariamente attraverso lo strumento flauto, si rende il suono di un flauto. C'è un livello di complessità compositiva, secondo me, veramente sbalorditiva, che riesce proprio nei minimi dettagli, negli intervalli, a definire benissimo gli strumenti e le varie, insomma, i vari momenti musicali che vuole descrivere. Uno dei più famosi momenti è l'aria di Snezzler's Voice. Direi forse il pezzo più conosciuto di questo tratto da questa composizione. Sì, che viene eseguito poi anche a volte anche singolo insieme ad altre cose, quando Sì. fanno, visto anche le un po' fiore da fiore nei Sì. concerti, scelgono quasi sempre quello. Tendenzialmente sì, o questo qui o lo vedremo, cioè lo vedremo, lo ascolterete in Vain Dammer's Flute, che è un altro, è un duetto bellissimo tra un controtenore e un tenore, in questo caso come ce l'ascoltiamo noi, non sempre in realtà è così, a volte è fatto anche da un alto e un mezzo soprano, per esempio, femminili o insomma due controtenori, ci sono diverse interpretazioni. Quale? Sì, ovviamente le voci lui ha dato delle parsel ha dato delle indicazioni, poi le abbiamo spesso modernizzate, ma vabbè. Chiaro. Quindi, The Snatcher's Voice, ad esempio, virgolettato, vi leggo un pezzettino veloce del testo, è la voce della natura che attraverso la foresta tutte le creature intendono, la lingua universale che nessun uomo di questa terra può ignorare, perché è da essa che loro apprenderanno a sedurre l'orecchio e a colpire il cuore. Questa di Snatcher's Voice, altrettanto impressionante secondo me, è appunto in Vain Dammer's Flute, dove c'è questo intreccio di voce e intreccio di flauti, lo ascolterete. E poi ci sono un po' tutti gli altri pezzi, le varie arie, ma anche i movimenti più strumentali o di cori, insomma. Penso vi divertirà. E basta, secondo me vi abbiamo già detto tanto, cioè Eh io sì, più che altro. oggi era veramente il tuo Mari, questa è proprio, lo so, la D'altronde, passione. io vi leggo i 13 movimenti, quali sono, giusto per fare la personcina precisa. Modo. Allora, Symphony Overture, Introduction, Canzone, Adagio, Allegro, Grave, Allegro, Repeat, viene fatta 2 volte. Poi c'è Recitativo, il secondo movimento, basso, e basso si intende chiaramente basso continuo, e coro, Hail Bright Cecilia, anche questo piuttosto famoso. Terzo movimento, Duet. Vabbè, qui più che altro si intende, almeno secondo le indicazioni di Purcell, un alto con un basso, quindi un duetto tra un alto e un basso, Arc Arc Hitch 3 chiamato. Poi c'è il quarto movimento, che è un'aria di un controtenore, appunto di Snatcher Voice, come dicevamo prima, il quinto chorus Soul of the World, e il sesto un'aria tra soprano e coro, Who Turns This World? Ho perso già il conto. Settimo, un trio tra un alto tenore e un basso, With That Sublime Celestial Lay. Ottavo, un'aria di un basso, Wondrous Machine. Nono, un'aria di un controtenore, The Hairy Violin. Decimo, un duetto tra controtenore e tenore, secondo me ho sbagliato perché in realtà ce n'è troppi ancora. Comunque, questo è il duetto tra controtenore e Importa, va, tenore in vada, vada. Vain Dammer's Flute, l'aria di un controtenore, The Fife and Hold the Harmony of War, lo sentirete molto guerresco. Un duetto di 2 bassi, Let's This Among Themselves Contest, e l'ultimo un coro con cui si conclude Hail Bright Cecilia, Hail to Thee. Sì, forse no, effettivamente non avevo sbagliato i numeri, è che questa è la ripetizione da capo E del due, primo esatto. movimento. E la versione che ci fai sentire, Mari? La versione, no, la versione non vi so dire in Ah, vabbè, ok, perfetto. formazione, mi cogliete Segreta, poi la scriviamo. impreparata, non mi Piace. ero guardata, me la sono scaricata al volo. Vabbè, ce l'aggiungiamo. E mi sembra, chissà, forse Baroque Consort Music, non me lo ricordo, sicuramente un consort inglese. Chiaro. perché ho voluto essere un pochino, come dire, filologica. Però non mi ricordo, abbiate pazienza. Vabbè, tanto ce lo magari ce lo scriviamo nel... Ce lo scriveremo, sì, sicuramente. Quindi bene, basta. Buon ascolto e ci sentiamo domenica prossima direttamente, nuova puntata della Fuga del Gatto. Thank you. Thank you. Express. Thank you. Thank you. It's like a bonding song. Not a consul, not a consul, not a consul.